avanti. Avanti su 10. Sì. Attento Billy. C'è qualcuno in questo canale di morti viventi? CQ canale 10. Attento Billy. Billy Drumito. Cingo. Attenzione 10, c'è qualcuno su 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avanti. Sì, buonasera, io sono Gianni del Bruno e tu chi sei? Oh signori miei, eia, e beh, tutto bene, fa come? Poi non è 30 più nessuno, infatti è poco a accendere, te ci avvisi per niente, ma quasi sempre è vuoto. Sì che ti sento bene, poco fa eri fuori frequenza, sembrava in effetto. E ricordo se non ammetta e fa come entrare, non è sempre, poi gli dicono sempre che non c'è nessuno. Se non entrano, quando c'è gente non entrano, non entra mai nessuno. No vabbè, io quando trovo gente mi parlo, se non ne trovo c'ho altri ubi. Io c'ho già anche l'ubi del canto, quindi metto a cantare e via. Ogni caso così tende a dire. Ma cosa sei attaccato, Falcone? Ho detto se sei attaccato. No, appartiamo fuori a lui, cosa c'è di ideare? Allora ti parlo troppo vicino con la bocca, sono un po' sato così. E allora gli è attaccato, sì. E vabbè. E il sangue è un casino, eh. E ma la radio. La radio che risultava un po' satura, adesso va meglio, ma forse è perché sta parlando troppo vicino al microfono. No, adesso è satura. No, fa un passaggio lungo, adesso va bene. Cos'è? Staccato, vai. Allora, tu non devi né gridare e né stare troppo attaccato al microfono. Se gridi è stato, se parli piano è tranquilla, se non satura se gridi. Ah va bene, se è più basso ma la radio è buona. Che apparecchio stai usando? Faccio bugie, no, un Kenwood. Sì, grazie a Dio sì, al 100%. Sì, dopo l'operazione ho dovuto fare un po' di fisioterapia, poi mi sono ripreso. Guarda, io non ne ho fatto di fisioterapia a pagamento. La fisioterapia me la sono fatta io perché era il periodo del Covid e me la sono dovuta fare io, capito? Non sono uscito da casa, guardavo su internet che cosa dovevo fare e seguivo le lezioni. C'era un fisioterapista che faceva le lezioni, prima settimana, seconda settimana, e grazie a Dio mi sono buttato giù. Non lo so quanto sia, non ho idea, perché io quando l'ho fatta me l'hanno assegnata dall'ospedale la scorsa volta, questa volta qua me l'ho fatta io. E allora, non so sono vecchi adesso, non si risolvono più come prima. Prima poco tempo si risolvavano, quando gli ossa invecchiano perdono la patina che c'hanno sopra, praticamente ci mettono di più, specie quando c'è l'osteoporosi. No, oramai io sono in pensione e mi vergogno, sono più da acciacchi, ma sì, non è che mi vota tutta, sono un buono da acciacchi. Io ne ho compiuto 64 il 20 di ottobre e io lo gioco, io sono più umano, e mi ha detto che si arrivino, ma dice dai, ma sono tutti che arrivino, no? Ne avrai 78, penso, quindi 67, 87, 97, sì, 22 anni, e a che età si è andato in pensione? Se si è andato a 67 anni in pensione, dovresti avere 87, 97, 99 anni dovresti avere, e non virai, non vi grido, hai visto. E a che età sei andato? Ma è statale? Non mi ricordo, vabbè. Comunque, sei andato molto prima di me. Ti lamenti di me? Lo so. Dove lavoravi tu? Alla famosa petrolchimica. Lo validare. Cosa facevi, salvatore? Ma vai, non vi credo. Non vi credo che lo facessi nulla. A nulla non ti paga nessuno. Se hai già compreso. Ma non vedi che ditta è? Io ho lavorato alla Montubi come saldatore un periodo. Io ho lavorato alla Montubi come saldatore elettrosacettilinico, perché io avevo di qua mai saldatore. E adesso un ammasso di ferro è rimasto. Solo inquinamento c'è, non ve asso, non vi riso più di ditte. Quindi ci sarà la Turis Espansi, quella che fa i vassoi per le macellerie. Quella lì dovrebbe esserci ancora, se non ha chiuso pure quella. Vabbè, l'unica cosa che c'era lì, si stava bene, ma l'unica cosa che c'era è che si respirava aria brutta. Mio cognato lavorava a fianco all'impianto dell'ammoniaca e si è abbigliato la leucemia, non ti dico altro. No, già dall'inquinamento si prende. Lui lavorava la SEI, la conoscevi? S-E-I. E c'erano lì tutti, c'era il soldatore, lui era carpentiere in ferro. Vabbè, ma qualche cosa già te la ricordi ancora, va. Io ho finito la scuola, proprio mio cognato mi aveva portato via a fare la prova, mi avevano fatto saldare all'americana questo tubo dove ci stavi dentro tu, la scuola, questi tubi così grandi non li avevamo mai saldati. Hanno fatto usare l'elettro da sfondamento e poi il citoflex, devi fare saldato un grosso e poi fanno la radiografia, ti fanno la prova per prenderti. E i contadini avevano mollato tutti i terreni per andare lì perché ci stava bene come stipendio. Mio cognato mi ha detto che i saldatori erano quelli che stavano meglio, cioè entra come saldatore che stai bene. Loro, tu devi aspettare che i carpentieri preparino tutto, ti devono smussare il tubo, te lo devono puntare e poi tu lo saldi. L'ultima cosa che è te ne stai seduto fino a quando loro fanno tutto il lavoro. Ciao, ci sentiamo, dai, stai bene. Buona cosa, buona serata. Che avanti. Ciao già, buonasera, sto chiudendo, ciao. Ciao. Avete di bocca di vendi, no? No, veramente ero in sala. Niente, già copiando sono me. Ciao. Ma cosa c'è? Festa la tua voce? Ma cosa, le mani hanno fatto buio, fuochi artificio, non una buccia, due bucci. Li ho visti da casa io, perché sono andato a portare il cane giù, da via Morba si vedevano i fuochi. Va bene, però si vedevano in primo piano proprio. E ho detto, c'è la festa, qualche festa, la tua dolce, boh. Ma non c'era niente. E che a livello di noi dobbiamo andare, non fate nulla. fare, dai. Sì, solo li usano per altre cose, perché tu non so se lo sai, ma li usano per attivare, quando arriva la roba, per attivare i tussici. Beh, non lo so. Io so che ogni anno fanno così e da voi non fate più casino che a mezzanotte. Vabbè, lasciali in bacio, fate il bicio. A me non li hanno scoppiati in orari tranquilli, e qua li scoppiano anche alle 4 di mattina a volte, in piazza della Meridiana lì. Li mettono anche alle 4 di mattina, senti, il cane passa a razzo e si mette a maiare, normale, perché si fa vento, è addormentato. E il mio si nasconde, poverino. Si nasconde, cerca di sotto il letto, da dove può, capito? Loro magari lo sentono di più. Poco dimmi. E a volte manco giù vuole scendere. Oppure se scende se ne torna, se vuoi tornare subito, immediatamente su, a che dimmi trucco. Ciao, ci sentiamo. E loro sentono tutto amplificato più di noi. È normale. C'è qualcuno sul 10? Avanti. Hola.